Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati al primo appuntamento dell'anno con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Buon 2011 a tutti, innanzitutto, con l'augurio di cuore che questo nuovo anno porti novità positive per i giovani di talento. È troppo chiedere che possano formarsi ai massimi livelli in Italia e all'estero, che possano, se vogliono, uscire dal paese per completare la loro crescita, ma soprattutto possano successivamente rientrare nella penisola sulla base di selezioni trasparenti e meritocratiche che eliminino la parola raccomandazione dal vocabolario e che non tengano conto dell'età anagrafica? Potrà l'Italia diventare da quest'anno un paese per giovani? È questo l'augurio che lanciamo in questa puntata di Capodanno, seconda trasmissione speciale del periodo natalizio, nel corso della quale vi forniremo statistiche molto interessanti sulla nuova emigrazione professionale e vi racconteremo le storie di due giovani emigrati di successo. Li abbiamo incontrati lo scorso ottobre nel corso della premiazione a Padova degli Young Venetian Excellence, riconoscimento per i giovani veneti emigrati. Il primo dei nostri protagonisti lavora negli Stati Uniti, la seconda invece è una vera e propria globetrotter. Di là è più semplice, non c'è niente da dire, non sto dicendo che qua non si può fare, si può fare anche di qua, ma bisogna cambiare un po' la mentalità delle persone, un po' il sistema, la società, la parte fiscale, la parte di supporto a queste innovazioni e soprattutto ascoltare anche chi ha 21 anni e non considerarlo troppo giovane. Paolo Privitera, 33 anni, è cofondatore della startup Duciu a San Francisco. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Edizione speciale anche per le nostre news. Oggi approfondiamo i numeri della nuova emigrazione professionale. Domenico Gabrielli, ricercatore dell'Istat, è tra i curatori del rapporto Trasferimenti di Residenza 2008, che tiene conto anche del bilancio demografico. Sulla base di un'elaborazione richiesta da Giovani Talenti, l'Istat ha certificato ufficialmente alcuni trend emersi nel corso degli ultimi anni. I nuovi espatriati sono giovani, provengono sempre più dal centro-nord, ma non solo, il loro flusso è in crescita. Sentiamo Gabrielli. Sono circa 80.000 e 600 gli espatri nel corso dell'anno 2009. Occorre distinguere chiaramente tra espatri di italiani e espatri di stranieri, in quanto il fenomeno dell'espatrio, ovvero dell'emigrazione, è più caratterizzato dalla componente italiana, a differenza invece del fenomeno dell'immigrazione, che è caratterizzato quasi esclusivamente dalla componente straniera. Il rapporto, per esempio, nel 2008, nel 2009 è di circa 48.000 italiani contro 32.000 stranieri. Diciamo che dal 2003-2004 fino al 2009 il numero degli italiani che lasciano l'Italia è grosso modo costante, con un lieve aumento nel 2008 rispetto per esempio al 2004, circa il 6%. Questo aspetto della costanza del numero, tuttavia, cela degli importanti cambiamenti, in quanto cambia radicalmente la composizione di questo piccolo segmento di popolazione che lascia il nostro paese. Ce lo spiega perché è importante questo, sì. Per esempio cambia la composizione, che so, per ripartizione di provenienza. Qui i cambiamenti sono veramente notevoli. È un'emigrazione italiana caratterizzata molto di più dal centro-nord rispetto che il sud. Insomma, sono molto di più in proporzione le persone del centro-nord che lasciano l'Italia rispetto al sud delle isole. In quanto a età? In quanto all'età, anche qui ci sono dei cambiamenti, aumentano le classi di età che possiamo definire quelle più produttive, quelle che con ogni probabilità si muovono per ragioni di lavoro, vale a dire le classi di età 25-34 e 35-44, che nel complesso passano dal 48,8% nel 2004 al 54,1% nel 2008, non è un cambiamento da poco. Per riassumere, perché questo è molto importante, negli ultimi anni l'emigrazione verso l'estero è mutata geograficamente, si sta spostando più verso il centro-nord e si sta spostando verso i più giovani? Verso le classi di età più produttive, ma non basta, cambia molto anche la composizione per titolo di studio. Nella composizione per titolo di studio hanno molto più peso i laureati e questo ha

siamo nella fase di completamento dei primi 2 anni di lavoro per i percorsi di rientro, mentre abbiamo oltre 3.500 giovani che hanno fatto un percorso in uscita. Naturalmente occorre aspettare la maturazione di tutti i percorsi in uscita per poter effettuare un adeguato numero di percorsi di rientro, però se lei considera, fino a questo momento il programma ha finanziato tra percorsi in uscita e percorsi di rientro oltre 76 milioni di euro, complessivamente supera i 100 milioni. Quali sono le principali mete, destinazioni e tipi di studio, percorsi di studio che questi giovani scelgono? Le materie economico-giuridiche e quelle tecniche la fanno da padrone tendenzialmente in questo momento. Le destinazioni sono state nel corso del primo periodo prevalentemente di carattere nazionale e più raramente di carattere internazionale, ma poiché ci siamo accorti che in questo momento il livello dell'offerta formativa è superiore in ambito europeo o americano, stiamo agevolando e premiando chi va a formarsi nelle università più prestigiose del mondo. Per maggiori informazioni potete cliccare su regione.sardegna.it. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. Questa settimana vi leggiamo un passaggio di una delle tante lettere di espatriati che abbiamo pubblicato sul blog ufficiale della trasmissione. Ecco allora un estratto della missiva di Gregorio, chirurgo al lavoro nelle isole Hawaii. Scrive Gregorio: faccio il chirurgo negli Stati Uniti, sono uno dei pochi che è tornato in Italia 2 volte. In patria torno a fare ora qualche giorno di vacanza. Cosa mi sento di consigliare ai giovani colleghi? Studiare quanto prima l'USMLE e ottenere un buon punteggio. Partire per fare una clinical residency negli Stati Uniti, possibilmente con visto H1, così che non debbano passare i 2 anni di punizione in Italia, come ho fatto io. È sempre bello tornare qualche giorno a vedere come vanno le cose. Così si riparte ancora più volentieri. Così scrive Gregorio. Online sul blog potete leggere la lettera integrale. Questa settimana vi rilanciamo intanto la nostra provocazione natalizia. Le risposte le leggeremo nel corso della puntata del 15 gennaio. Cosa deve portare, questa è la nostra provocazione, il 2011 ai giovani talenti italiani? Qual è il vostro augurio affinché l'Italia possa divenire a tutti gli effetti un paese per giovani di talento, meritevoli e soprattutto allergici alle raccomandazioni? Giovani che non hanno bisogno di cercare all'estero la propria fortuna? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E potete pure interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviateci i vostri contributi che pubblicheremo online. E vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva Matching, la prima piattaforma internet per avviare partnership tra i giovani professionisti residenti all'estero e i coetanei rimasti in Italia. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto allora i vostri contributi online a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon 2011 da Sergio Nava.